12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata della scorsa settimana abbiamo approfondito il lavoro del wedding planner, ovvero il professionista che si occupa di tutti gli aspetti organizzativi di un evento e tra questi sicuramente il matrimonio. Rimanendo in tema, oggi andiamo alla scoperta di una professione che sicuramente ha a che fare con il giorno del fatidico sì, ovvero parleremo del cake designer e lo faremo insieme a Orietta Basso, cake designer professionista. Il lavoro del cake design è legato di sicuro al settore della pasticceria, ma non si tratta solo di questo. Infatti, chi vuole fare questo lavoro, al di là di doti legate alla cucina, deve possedere anche altre abilità legate a settori completamente differenti come l'ingegneria, la grafica, l'illustrazione, la pittura, l'architettura, ovviamente applicate alla conoscenza di tecniche dolciarie e ad una grande manualità. Essere un cake designer vuol dire poter lavorare in differenti contesti come hotel, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, società di catering, ma si può anche essere lavoratori autonomi, consulenti o addirittura docenti di cake design. Il cake designer può ricoprire un ruolo generico oppure specializzarsi in un particolare tipo di decorazione come le torte nuziali o di compleanno. Come abbiamo già accennato, la conoscenza delle tecniche dolciarie è alla base, ma poi si devono conoscere le regolamentazioni legate alla manipolazione e produzione del cibo, saper riconoscere la differenza tra prodotti da decorazioni e prodotti edibili, saper scegliere i fornitori, valutare la qualità e il costo dei materiali che si andranno poi ad utilizzare. In più bisogna possedere moltissima fantasia, creatività e ottime capacità progettuali. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora diamo il benvenuto alla nostra ospite Orietta Basso, cake designer professionista, alla quale chiederemo di raccontarci cosa vuol dire esattamente lavorare in questo campo. Orietta, benvenuto a 12 minuti. Grazie a voi. Orietta, cosa vuol dire essere un cake designer? In cosa consiste esattamente questa professione e ovviamente di che cosa si occupa lei, quindi? Allora, essere un cake designer significa, io cambierei questo termine per quanto mi riguarda, io mi definisco una decoratrice di torte, mi piace parlare in italiano e avere un approccio a questo mestiere in questo modo e distinguere bene quelle che sono due fasi della progettazione di una torta. Dove in una prima fase il pasticcere lavora e prepara quella che è la base fondamentale di una torta. Il decoratore invece si occupa della decorazione. Per decorazione si intende l'utilizzo di materiali quali pasta di zucchero, gum paste, coloranti alimentari, e materiale di questo genere che comunque si usa in pasticceria e da qui si studia un progetto per soddisfare le esigenze di una persona. Ecco, sì, no, prego. Quindi dicevo che sostanzialmente c'è un committente di un'opera, perché ormai si parla di opere riguardo queste torte, che commissiona un tema che può essere una wedding, un tema che può essere una festa per i bambini e il decoratore sviluppa un'idea per soddisfare le esigenze del cliente. Certo, e quindi Rita, quali sono le competenze appunto che bisogna possedere per poter fare questo lavoro? Ecco, allora questa è una cosa molto importante, nel senso che purtroppo ad ora non esiste una collocazione professionale precisa, poiché non esiste un attestato, un diploma, un riconoscimento che si possa considerare ufficiale per essere un cake designer. Però questa cosa non ci deve scoraggiare, perché comunque è un mestiere in evoluzione. Fortunatamente adesso la COMPAIT, che è l'Associazione Nazionale Pasticceri Italiani, insieme all'Agenzia Sweet Test Eventi in Cucina, ha deciso di dare un proprio apporto a questo tipo di mestiere per dare una vera qualifica professionale e ha indetto questo corso di qualifica che si chiama Professional Pastry and Cake Design School, dove rilascia un diploma riconosciuto sul territorio nazionale ed estero e quindi valido ai fini lavorativi. Assolutamente, perché in effetti insomma è una professione ben definita, a volte no, si confonde un po' con quella del pasticcere, esatto. Ma come diceva all'inizio in realtà è proprio una cosa totalmente differente. No, infatti esistono laboratori, il cake designer può avere un laboratorio oppure non avere un laboratorio, nel senso che si può decidere di fare anche un cake designer. Io parlo per esempio adesso di me stessa in questo momento, perché la mia evoluzione è stata, ha avuto un determinato percorso. Io in questo momento per esempio non ho ancora un laboratorio personale. Cosa faccio? Collaboro con delle pasticcerie, quindi vado nelle pasticcerie di questi professionisti dove loro eseguono a livello proprio fisico la torta con il pan di Spagna, le creme o quant'altro, secondo la commissione del cliente, e si affidano a me per quanto riguarda la decorazione. Ecco Rietta, prima poi di proseguire, appunto di capire bene poi come funziona, ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi appunto riprendiamo a parlare insieme di come poter diventare un cake designer. Grazie. Too much light in this window, don't wake me up. Only coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me Don't wake me up. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, stiamo parlando del lavoro di cake design. Abbiamo ospite qui con noi Orietta Basso, cake designer professionista, che ci sta appunto raccontando cosa vuol dire lavorare in questo campo. Orietta, prima della pausa musicale ci stavi un po' dicendo come si svolge effettivamente il tuo lavoro, cioè ovvero come collabori con le pasticcerie, i pasticceri e la realizzazione dei tuoi prodotti. Sì, no, io vengo contattata per commissioni di torte per eventi più o meno importanti, eventi importanti quali possono essere una wedding, quindi un matrimonio, ma poi anche cresime, battesimi, comunioni, oppure feste di compleanno per grandi e soprattutto per piccini, ovviamente. E io comunque poi dopo il primo contatto mi affianco ad un pasticcere professionista, elaboro su carta proprio il progetto di una torta a tema, per esempio, non so, posso parlare di un ultimo lavoro che ho fatto, di una comunione, il cliente mi ha commissionato dei punti base, tipo i colori che voleva che la torta avesse, che tipo di stile poteva avere la torta, un po' più classico, un po' più colorato, insomma i temi possono essere tantissimi ovviamente. Io in base a quello che desidera un cliente metto giù un disegno, un progetto, ne parliamo insieme oppure qualcuno si affida totalmente e date le... 12 minuti, a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Dal mondo del cake design vi segnalo il Cake Design Italian Festival, che si terrà allo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel Conference dal 24 al 26 maggio 2013. Sono previsti ben 35 corsi e 14 workshop per tutti i livelli di abilità e tecniche dolciarie differenti. Per informazioni potete scrivere a info@cakedesignitalianfestival.com o visitare il sito www.cakedesignitalianfestival.it. Vi ricordo il sito che già ci aveva segnalato la nostra ospite, www.italiancakedesigner.com, che oltre a pubblicare ricette, consigli e suggerimenti propone una lista di corsi e scuole in tutta Italia. Conoscere associazioni del settore e le fiere, gli eventi in questo campo può essere utile invece a chi intende mettere su una propria attività e che perciò necessita di una fitta rete di contatti commerciali e promozionali. Vi segnalo quindi il sito www.thecakeshow.it, Fiera di Bologna, e www.cakedesigners.org, che è il sito dell'associazione italiana Cake Designers. Come abbiamo detto più volte durante la puntata, la base del lavoro del cake designer vi è la conoscenza delle tecniche dolciarie e abilità legate al settore pasticceria. Vi segnalo quindi i corsi professionali per la qualifica di pasticcere organizzati da DF e Enaip Veneto. I corsi organizzati da DF hanno una durata di 600 ore, divisi in 350 ore da aula e laboratori e 250 ore di stage, mentre i corsi di Enaip Veneto prevedono 300 ore di stage su 600 totali. Per avere informazioni sui corsi DF vi segnalo anche che la prossima edizione è prevista a giugno 2013 nella sede di Valdobbiadene, Treviso. Potete visitare il sito www.df.com oppure scrivere a info@df.com. Per contattare Enaip Veneto potete invece andare al sito www.enaip.veneto.it o scrivere a info@enaip.veneto.it. E per oggi è tutto, appuntamento alla prossima puntata in cui ci addentreremo nel mondo del lavoro nel settore moda. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.